Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. Il GSE, il gestore dei servizi energetici, ha messo online pochi giorni fa il portale informativo sulle rinnovabili, che era previsto, diciamo, dal decreto legislativo 28 del 3 marzo sulle energie rinnovabili, appunto. È un sito che ha l'ambizione di aggregare tutte le informazioni utili per chi vuole agire nei settori delle rinnovabili, ma anche dell'efficienza energetica, e c'è da scommettere veramente che diventerà presto un riferimento sia per i cittadini che per gli operatori, anche perché questo, lasciatemelo dire, si presenta bene ed è molto intuitivo, ci si orienta facilmente, insomma, fra le varie sezioni che lo compongono. Il portale si chiama Rinnova, lo trovate all'indirizzo rinnova.gse.it. Ne parliamo con Costantino Lato, direttore studi statistiche e servizi specialistici del GSE. Buonasera Lato. Buonasera a tutti. Allora, l'indirizzo l'abbiamo dato, veniamo ai contenuti. Che cosa ci troviamo dentro questo portale? Diciamo che ci sono quantomeno due pubblici di riferimento, no? Il pubblico un po' generico, operatori, cittadini, e poi invece ci sono gli addetti ai lavori. Sì, noi diciamo abbiamo sviluppato questo sito, questo portale, che noi intendiamo come se fosse proprio un hub informativo in cui si possono trovare sia informazioni di carattere generale, ma anche informazioni di carattere specifico. Ovviamente il sito non ha la pretesa di essere autoreferenziale, anzi vuole essere un momento in cui si può connettere, perché il sito aiuta anche a trovare le altre informazioni certamente necessarie, in special modo per quanto riguarda i sistemi, le autorizzazioni, in cui rimandiamo ai siti specifici delle regioni e anche delle province. Certo, certo. Ovviamente il sito poi è interconnesso, il Rinnova è interconnesso con il sito più di servizio, dove si può diventare più operativi per richiedere direttamente gli incentivi. Comunque, se uno apre questo sito si trova davanti subito una serie di scelte, per esempio esattamente. Il uno capitolo incentivi, uno se entra nel capitolo incentivi cosa succede? Succede, facciamo un esempio. Trova informazioni che riguardano tutti i tipi di incentivi, sia nel settore dell'elettricità, sia nel settore, diciamo, del calore, sia nel settore dei trasporti. Per ogni sistema incentivante viene descritta praticamente il tipo di tecnologia, come viene incentivato, come viene valorizzato, a chi rivolgersi e dove rivolgersi e quali sono le informazioni fondamentali che servono poi per poter anche procedere operativamente a richiedere l'incentivo. L'incentivo. Ecco, quindi i vari capitoli sono, per esempio c'è quello degli incentivi, poi che cos'altro c'è? Poi c'è il capitolo delle buone pratiche, sì, questo è importante, che vuole essere un momento di aggregazione delle migliori pratiche in Italia che si trovano per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Poi altri capitoli, solo i titoli. A soli titoli riguarderanno le autorizzazioni, sì, e riguarderanno gli studi più importanti che vengono sviluppati all'interno di questo mondo, e riguarderanno anche la normativa, dove c'è un potente, diciamo, motore di ricerca che noi abbiamo ideato, sì, per poter cercare anche in maniera sofisticata un particolare, diciamo, riferimento normativo a qualcosa di specifico. Io ho provato a usarlo, effettivamente un po' rivolto a tutti questa parte. Poi dopo c'è una parte del sito che invece contiene le informazioni davvero molto pregiate, addirittura che possono essere elaborate al momento sulla base di tutte le statistiche che voi aggregate. Si chiama Simeri. Ecco, proviamo a spiegare un po' che cosa ci troviamo lì dentro. Poi all'interno di questo portale abbiamo anche sviluppato, sempre su indicazioni e in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, il sistema italiano di monitoraggio per le energie rinnovabili. Questo sistema consente, voglio dire, di in pratica monitorare anno per anno qual è il risultato che raggiunge l'Italia per poter poi verificare se viene raggiunto quel 17%. È un sistema molto innovativo perché consente di scaricare i dati, diciamo, delle statistiche direttamente su un foglio elettronico. Cosa che può fare chiunque, qualunque cittadino, quindi c'è un principio forte di trasparenza. Questa è stata una cosa che ci ha guidato, ma la cosa più importante è che stiamo sviluppando in accordo con tutte le regioni per il burden sharing la parte, diciamo, delle regole che devono essere adottate, perché servirà anche a monitorare il cosiddetto burden sharing. Cioè il fatto che ogni regione ha suo obiettivo specifico, esatto, da realizzare, e lo deve appunto realizzare, quindi si potrà ottenere anche lo stato di avanzamento, per così dire, a livello di singola regione. Perfetto, per il settore elettrico è già possibile, sì, adesso, okay, caricarsi i dati per ogni regione, mentre stiamo lavorando molto, e questo, diciamo, è veramente un importante compito che ci è stato assegnato, quello di fare le statistiche per il settore dei calori, dove in realtà esistevano degli studi ma non esisteva fino ad oggi un sistema, diciamo, standardizzato per poterlo fare. Noi, in accordo col Ministero e con le regole dell'Eurostat, lo porteremo avanti in maniera che nei prossimi anni sia possibile monitorare e conoscere quali sono i risultati dell'Italia e di ogni sua regione. Questo è l'obiettivo fondamentale di questo sistema. Se un comune, una provincia, un'amministrazione, per esempio, ha messo in piedi una buona pratica, o almeno ritiene che sia una buona pratica, ve lo vuole segnalare, vuole essere inserita in questo elenco di buone pratiche, che probabilmente è veramente una delle sezioni più preziose del sito, cosa deve fare? Deve segnalarcelo e può mandarci la sua buona pratica, noi ovviamente la esaminiamo e se degna, sicuramente in molte occasioni lo sarà, noi la mettiamo in vista, diciamo, in questa nostra vetrina, che poi diventerà un modo per poter diffondere la migliore cultura per la realizzazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia. Noi, diciamo, abbiamo scommesso sul fatto che vogliamo dare un'informazione che passa proprio dal livello generale per tutti i cittadini, per poi però spingerci sempre più in profondità. Per esempio, quando si parlerà delle autorizzazioni, daremo indicazioni di qual è, diciamo, la provincia o la regione competente, di qual è l'ufficio, per poter andare, diciamo, a definire e individuare quali sono i passi che si devono oggettivamente fare. Quindi potrà diventare quello che noi abbiamo volutamente abbiamo definito un hub. Ecco, non so a lei se ha mai visto Labyrinth, quel vecchio film con con David Bowie. Ecco, insomma, voi cercate di trasformare un labirinto in un hub. Buona fortuna, grazie Costantino Lato. La ringrazio, buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.